e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, ben ritrovati a quest'ultima puntata della settimana di Cuore e Denari. Vi abbiamo tenuto compagnia in maniera simpatica questa settimana. Lancio subito il domandone per ogni sì scontato, speriamo, un sacco di libri di Cuore e Denari. Allora, dai, di che parliamo stamattina? Tanti temi. Sì. Fino anticipiamo alle 12, già qualcuno. Sì, anticipiamoli. Fra un po' vi racconteremo di questa iniziativa del weekend del Banco Farmaceutico per quello che riguarda la parte di denari. Rifacciamo l'ennesimo punto delle ultime settimane dei casi di risparmio tradito, gli indennizzi ai sottoscrittori delle obbligazioni subordinate delle banche risolte. È stato emanato il famoso decreto salva risparmio, salva banche. Mm-hmm. Ci sono delle novità per Monte dei Paschi, quindi faremo un punto di fine settimana su questo. La pagina di Cuore invece... Allora, non è una novità perché l'abbiamo sempre detto e lo sappiamo anche per esperienza personale, ma è uscita questa ricerca che dice che praticamente l'attività fisica da sola non basta a dimagrire, ci vuole altro, ci vuole di più, ma la ricerca sottolinea anche che per in alcune persone l'attività fisica stimola l'appetito e quindi si mangia di più e si ingrassa. Quindi attività fisica un po' sotto la nostra, i riflettori. Cercheremo comunque di capire con il nostro esperto. Torna il dottor Ongaro, ecco. Grandissima, grande richiesta, direi. Che cosa fare, cosa mangiare, come muoversi, quando muoversi per far rendere questi investimenti. Esatto, ti piace? Nel nostro benessere. Dai. Allora, detto tutto come ciò, mi sto deborizzando. Io mi sono nicolettizzata. Detto questo, partiamo anche un po' con la borsa. Questa va fatta. Cosa vuoi, certo, fare? Andiamo. Allora, meno 0,36% per il FTSE MIB a Piazza Affari, che era partito meglio. Milano, proprio se deve portarsi a casa un premio questa settimana, possiamo dire che è il premio per la borsa più volatile degli ultimi 5 giorni. La palma della volatilità. Diamo questo nuovo premio. Per quello che riguarda le altre piazze europee, Parigi più 0,12%, Francoforte più 0,35%, Londra meglio più 0,44%. Oggi è andata molto bene a Tokyo. Il Nikkei ha chiuso con un rialzo di 2,5 punti, intanto perché siamo alla vigilia di un importante incontro a Washington. Donald Trump incontra il premier Shinzo Abe e poi se lo porta nel weekend in Florida. Ma veramente? Ma pensa che weekend simpatico che passeranno. Chissà se è contento. Ma vorrei ben vedere, tu nel resort che ha Donald Trump in Florida non ci andresti a fare però un devi giro. Anche stare 2 giorni con Donald Prima, Trump. Prova a diventare primo ministro del Giappone. Beh, poi guarda, vediamo se che ci se puoi... mi impegno. Va bene. Detto questo, ma soprattutto diciamo che il Giappone ha premiato stamattina l'iniziativa della banca centrale che ha implementato la sua politica di acquisti di titoli di Stato aumentando la quota dei long term, appunto di quelli a durata appunto più lunga. Andiamo a Piazza Affari perché qua ci sono un sacco di notizie da segnalare. Allora, intanto va bene il mattone, Buzzi Unicem più 2,90, Salvatore Ferragamo più 2, Ubibanca più 0,8%, stamattina pubblicazione dei conti, conference call con gli analisti, il gruppo ha delle belle perdite per il 2016, però sta rimettendo in pista appunto tutta l'attività e parla di risultati invece incoraggianti e promettenti, almeno dalle prime indicazioni per il 2017. Vede un 2017, ha detto l'amministratore delegato Victor Massià, in forte miglioramento. Io lo cito sempre l'amministratore delegato di questa banca perché so per certo che è il nostro fan, Nicoletta, per cui lo salutiamo. Detto questo, un'altra banca invece in forte difficoltà stamattina a Piazza Affari è BPR Banca, meno 5,54%. Il gruppo ha comunicato i suoi risultati, gli utili nel 2016 sono in calo di oltre il 90%, molto peggio delle attese. C'è una cedola appunto che è stata praticamente dimezzata rispetto all'anno scorso e il titolo è in ribasso di adesso quasi 6 punti, anche se la banca ha confermato il suo interesse per l'acquisizione di CariFerrara. Banco BPM meno 3,30, Telecom meno 2, Unipol meno 1,44%, arrivano le prese di profitto su Mediobanca meno 1,21. Oggi monitoreremo anche Wall Street, che ieri ha toccato ancora una volta i suoi record su tutti e tre gli indici. Gli ultimi appuntamenti della giornata importanti sono con l'asta bot da 6,5 miliardi bot annuali e poi stasera Moody's dà l'ennesimo giudizio sull'Italia. Quindi appuntamenti ce ne sono tanti in giornata, Nicoletta. Segnateli tutti. Segniamoli tutti. E segnatevi anche un altro appuntamento. Ah, brava. Come sono stata brava, hai visto che tacchete. Ho afferrato il gancio. Hai afferrato l'assist. L'assist. Ecco. Vedi, allora, l'appuntamento domani, sabato 11 febbraio, giornata nazionale della raccolta del farmaco. Basterà recarsi nelle farmacie, naturalmente quelle che espongono la locandina dell'iniziativa, e acquistare un farmaco per donarlo a chi ne ha bisogno. Allora, per saperne di più abbiamo in linea con noi il dottor Marco Malinverno, direttore generale della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e vi ringrazio per avermi invitato. Allora, alla giornata, dottor Malinverno, che è arrivata alla sua 17ª edizione, partecipano oltre 100 province e più di 3.600 farmacie in tutta Italia. Ma concretamente entriamo in farmacia con lei, andiamo al banco. Che cosa ci succede? Succede che intanto trovate dei volontari che vi diranno che i farmaci che sono in donazione sono per un ente assistenziale che è collegato con quella farmacia. Il donatore può decidere di donare un farmaco da banco, antinfiammatori, antipiretici, farmaci per disturbi gastrointestinali, antiparassitari, per malattie di raffreddamento, comunque farmaci da banco. E questi farmaci a fine giornata vengono dati all'ente assistenziale che è collegato con quella farmacia. Le farmacie sono quest'anno addirittura più di 3.800, e questa è una cosa molto positiva, perché noi abbiamo avuto un fortissimo incremento di richieste da parte di più di 1.700 enti assistenziali dall'anno scorso, in cui la richiesta per l'automedicazione era di 871.000 confezioni, siamo passati a 943.000, e questo è un indicatore molto importante, chiaro, anche drammatico e paradigmatico di una situazione che è quella dell'aumento della povertà sanitaria, perché come voi ben sapete 12 milioni di persone l'anno scorso hanno limitato le visite mediche e gli esami di accertamento, e la spesa per farmaci, diciamo, mediamente per una persona normale è intorno ai 270 euro, per un povero è 72 euro, vuol dire che mediamente una persona che è povera ha 6 euro al mese per poter acquistare i farmaci. Certo. Questo è uno dei motivi per cui la gente, sempre più anche molti italiani, vanno presso la Caritas o gli assistenziali ecco, a ricevere. Proprio a proposito di questo, dottor Malinverno, come avviene, ce lo spiega esattamente, ci ha dato prima già un piccolo dettaglio, la redistribuzione del farmaco donato. Io vado in farmacia, acquisto quello che ritengo, appunto, poi lei ci diceva di questo fatto che le farmacie si appoggiano a degli enti assistenziali. Come avviene la redistribuzione fra chi ne ha bisogno? Sì, no, è il banco che organizza, collega la farmacia o più farmacie a un ente assistenziale. L'ente assistenziale ovviamente ha un proprio armadio farmaceutico e ha moltissimi volontari che gestiscono la farmacia, comunque le attività così di cura e quindi di intervento, di rapporto presso i bisognosi. Purtroppo, soprattutto nelle grandi città, le persone che hanno bisogno conoscono la geografia degli enti. Anche a Milano, nelle grandi città come Roma, Firenze, Torino, sanno benissimo, anche nei luoghi centralissimi dove si va a potersi curare appunto con nulla, e quindi avendo un'assistenza totalmente gratuita, la possibilità di avere un farmaco, e questi enti appunto hanno la possibilità quindi di avere questi farmaci di automedicazione. Oltretutto noi aiutiamo gli enti assistenziali non solo nella giornata di raccolta del farmaco con l'automedicazione, ma lo facciamo tutto l'anno, perché svolgiamo altre iniziative, perché coinvolgiamo le aziende, per cui operiamo farmaci anche da prescrizione medica che diversamente non verrebbero utilizzati perché sono al circuito commerciale, recuperiamo farmaci validi in molte città italiane, abbiamo un'app che permette di fare donazioni online che si chiama Duline, quindi voglio dire un'attività continuativa, anche perché i più grandi enti assistenziali in Italia l'80% dei farmaci che danno ai poveri sono anche e soprattutto da prescrizione medica, quindi la parte di automedicazione è significativa, importante. Tra l'altro vi ringrazio per l'invito, perché noi abbiamo bisogno che molta gente venga in farmacia a donare, soprattutto perché riusciamo a raccogliere solitamente un terzo del fabbisogno, e quindi se quest'anno con più farmacie riusciamo a raccogliere di più, questo certo, quindi, un bellissimo segnale. Dottor Malinverno, domani tutti in farmacia, ci scrive anche Giuseppina da Modena, iniziativa lodevole che faccio ben volentieri, un piccolo gesto per chi è meno fortunato. E soprattutto, dottor Malinverno, teniamoci in contatto per segnalare ai nostri ascoltatori le vostre iniziative nel corso dell'anno. Questo è molto importante, il banco farmaceutico non solo in occasione dell'11 di febbraio. Infatti. Grazie dottore, buona giornata, complimenti. Grazie a voi, tra l'altro, per voi, chi chiede maggiori informazioni sulle farmacie che aderiscono all'iniziativa, si può andare sul sito www.bancofarmaceutico.org. Traffico, a tra poco. cuore e denari. Mi chiamo Ruben Nosave, io sono un professore argentino, io vengo da Buenos Aires, io insegno all'università in Buenos Aires, a una cattedra di sport, e io vado dicendo da molto tempo al mio paese di quello che io penso è una missione che si deve avere il coraggio di dire, una voce forte e chiara, scientifica, che si alza e dice il sport fa male. Tutti vuole stare in forma, andare in palestra, se deve avere il coraggio di dire il sport fa malissimo. Il sport fa male fisicamente, il sport fa male alla gamba, fa male alla schiena, fa male al cuore, fa male al polmone. Non c'è una parte del corpo che sport non ti fa male, sì? Ogni sport si specializza a massacrarti un organo in particolare. Tutto il sport generalmente, tutta la pratica sportiva è molto dannosa per il tuo organismo. Non solo fa male, io tutte le volte che sento Ruben Nosave rido. Mi fa sempre ridere Joelle Dix. Allora, non solo fa male, come dice il professore argentino, ma come abbiamo anticipato, secondo uno studio effettuato di recente presso l'Università di Chicago, fare attività fisica non serve neppure a dimagrire. Per buttare giù la pancia, sottigliare la coscia, far scendere le culotte de cheval, insomma ci vuole altro, anche dell'altro, tra cui uno stile alimentare vario ed equilibrato. Poi daremo un significato più preciso a queste due parole, perché in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Ongaro, primo medico anti-aging in Italia, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging e autore di due bestseller, Mangia che ti passa e Mangia che dimagrisci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Anche altri libri, ma l'ho fatta un po' corta, dottor Ongaro, tanto lei è qua e di casa. Allora, abbiamo scelto quelli a tema per stamattina. Ecco. Iniziate subito a prenotare subitissimo i vostri interventi, perché il tempo sfugge. 800 24 00 24, e il dottor Ongaro è qui, ma catturarlo non è semplice. Allora, dottor Ongaro, non basta sudare, ammazzarsi di fatica per dimagrire e mantenere il peso, ci vuole altro e tra poco lei ci darà la ricetta, quindi... Lo dico, scusi, lei stia lì. Se siete sovrappeso, se avete un po' di pancia, se nonostante i pesi, la cicletta, il corso di Pilates, non avete perso un netto, anzi, addirittura aumentate di peso quando vi mettete a dieta, perché capita anche questo. Non perdete l'occasione, perché oggi è la volta buona. Dottore, torno da lei. Lo studio in esame dice che non solo l'attività fisica non fa dimagrire, ma in alcuni casi potrebbe essere collegata ad un aumento dell'appetito, che a sua volta porterebbe a mangiare di più e quindi ad aumentare di peso. Oltre a questo, l'attività fisica, secondo questi ricercatori, potrebbe essere anche responsabile di quella sensazione un po' di addormentamento, tra virgolette, quella sensazione di essere meno attivi, meno pronti durante la giornata. Quindi faccio pesi, vado in bici, cammino, poi mi viene una fame da lupi che non riesco a controllare di più e mangio e ingrasso. Allora, chi si muove d'altronde, dottor Ongaro, lo sappiamo, brucia di più. Ma allora come la mettiamo? La mettiamo che bisognerebbe chiedere a questi autori che suggerimento pratico effettivamente vogliono promuovere, cioè che tutti stiamo fermi, perché voglio dire, adesso al di là delle battute, è chiaro che l'attività fisica ha un ruolo molto più ampio di questo e evidentemente puntare su una cosa sola, che sia solo l'attività fisica, magari nemmeno fatta poi benissimo, e oppure puntare su una cosa sola in ambito alimentare e anche in quel caso magari non fatto benissimo, non porta ai risultati sperati. Perché? Ma noi lo diciamo da tanto tempo che alla fine ci vuole una combinazione. Bravo. Intelligente delle due strategie. Perché, come dice Deborah, bisogna diversificare non anche solo nell'attività fisica ed alimentare, soprattutto. Io l'altra sera ho fatto, per esempio, in palestra una cosa che non facevo da tempo con un altro istruttore, non ti dico, ho dei dolori anche nelle punte dei capelli praticamente, ma questo per dirti che, pur essendo una che mediamente si allena, qualche certo volta bisogna fare anche dell'altro. E non bisogna puntare solo sull'attività fisica per dimagrire, né puntare solo sulla dieta. Allora, non basta muoversi, ma è fondamentale però, dottor Ongaro, muoversi per stare bene e per mantenersi in salute, perché l'inattività è un fattore di rischio molto pericoloso. Però, dottor Ongaro, mi piace un po', come secondo un po' lo stile di Cuore Denari, ricordare i vantaggi più che i rischi. Allora, quali sono i vantaggi di una attività fisica direi ben organizzata e su misura, perché mettiamo da parte per un attimo il problema del peso. Sì. I vantaggi, Nicoletta, sono talmente tanti che ci vorrebbero varie trasmissioni, allora, per elencarle. Facciamo una specie facciamo una specie di scheda allora. Partiamo dalla pressione arteriosa. Ecco, stavo dicendo la stessa cosa. La pressione, per esempio, è una delle cose che trae sicuramente più vantaggio da una pratica regolare dell'attività fisica. Quindi in tutti quei casi di lieve ipertensione o anche di ipertensione conclamata già in trattamento farmacologico, aggiungere un'attività fisica è estremamente importante. Andiamo al colesterolo, e in particolare al colesterolo buono. Bravissima, altra cosa che risponde in maniera magnifica all'attività fisica, cioè l'attività fisica è forse l'unica strategia che consente di aumentare le HDL, che sono la componente buona del colesterolo, che è quella protettiva, quindi altro punto molto importante. Passiamo alla glicemia, perché quando parliamo di pressione, parliamo di colesterolo, la glicemia completa il terzetto. Ecco, e la glicemia è un altro esempio molto, molto chiaro, nel senso che l'attività fisica non solo aiuta a consumare gli zuccheri che circolano nel nostro corpo, ma addirittura enfatizza, migliora, ottimizza i recettori per l'insulina, il lavoro dei recettori per l'insulina, che sono un passaggio chiave, diciamo, nella prevenzione di tutte le patologie metaboliche, dall'insulina resistenza al diabete. Quindi molto molto importante anche questo, insomma. E poi senza contare quella sensazione di benessere che arriva poi anche alla riduzione di quegli effetti dannosi dello stress che le ricerche riconoscono all'attività fisica. Assolutamente, devo anche dire che l'attività fisica è realmente capace di far rigenerare i nostri neuroni. L'attività fisica permette un rilascio molto forte di alcuni fattori di crescita nel nostro cervello che consentono di rigenerare i neuroni, e sappiamo per esempio che uno dei problemi legati allo stress è proprio il danneggiamento che lo stress cronico comporta a livello del nostro sistema nervoso centrale. Quindi insomma, i vantaggi sono veramente tanti. Tanti, tutti misurati da fior fiori di studi e di ricerche. A proposito di ricerche, torniamo allo studio di Chicago, in fondo conferma quello che da sempre qui a Cuore Denari i nostri esperti hanno evidenziato. Per perdere peso e mantenere il peso bisogna agire su due fronti, movimento e dieta. Allora chiamateci per avere consigli e anche indicazioni per ottimizzare il vostro impegno. Dottor Ongaro, spesso ci alleniamo molto, ma la dieta vanifica gli sforzi. È facile capirlo? Basta un occhio allo specchio oppure, se preferiamo, al centimetro? Sì, sicuramente, e devo anche dire purtroppo ci sono anche molte persone che pensano tramite l'attività fisica di semplicemente compensare gli errori alimentari che fanno. Ecco, questo non funziona. Se ci imbarchiamo in un progetto di attività fisica, impariamo anche a guardarci, a vedere come cambia il nostro corpo, se veramente cala la pancia o per esempio, come spesso succede, che la pancia rimane tale quale e calano invece le spalle in termini muscolari, per esempio, perché ci sono persone che finiscono col consumare più muscoli che grasso e quindi a mantenere la loro struttura fisica con una pancia bella pronunciata, che non è certamente l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Certamente, allora guardatevi, chiamateci, dopo aver fatto il check-up della vostra dieta vi aiuteremo a capire se l'attività fisica che praticate è adatta a voi, funzionale alla vostra forma psicofisica, e poi le combineremo insieme per fare, come si dice, centro GR. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Miau. Cuore e denari. Dai che si va, oggi siamo tornati insieme. Andiamo. Insieme al dottor Ongaro. Dottor Ongaro, i nostri ascoltatori impazziscono per lei. Addirittura. Allora, 800 24 00 24. Beh, la sfida è abbastanza impegnativa. Vogliamo perdere peso e mantenerlo. Dobbiamo naturalmente fare i passi giusti. Abbiamo capito che dobbiamo lavorare a tavola in palestra, perché i chili vanno aggrediti con un'azione sinergica. Allora, state provando a dimagrire? Siete riusciti? Allora, qual è stata la ricetta che vi ha portato al successo? Ma soprattutto, adesso che siete belli in forma, come pensate di organizzarvi per non far risalire di nuovo l'ago della bilancia? Tantissime domande, il dottor Ongaro è a vostra disposizione. Dottor Ongaro, allora intanto intanto voglio dare la linea a Claudia che ci chiama dalla provincia di Cremona e poi mettiamo a posto l'attività fisica, mettiamo a posto ancora la dieta, le combiniamo insieme. State pronti perché il dottor Ongaro darà delle indicazioni mirate per ciascun profilo. Vogliamo anticipargli un po' le pere, le mele, le persone che magari hanno provato tante diete, sono in una fase un po' di stallo, come quando il nostro computer si impalla che va resettato. Dottor Ongaro. Sì, è un problema questo molto, molto frequente e molto comune. Si sente spesso dire ho il metabolismo bloccato, il metabolismo lento, ed è importante capire che cosa effettivamente significhi questo, perché detto così può voler dire tante cose, troppe cose. Se invece si capisce bene da cosa dipende, si riesce forse ad instaurare una risposta più strategica, diciamo. Allora, intanto che noi sentiamo Claudia e Cristina, che così sono un po' il saluto della cucina per stimolare un po' il vostro appetito e quindi chiamare il nostro numero verde, diteci se volete dimagrire, ma quante diete avete seguito da quando avevate 18 anni, più o meno di 5, e diteci adesso quanto pesate e dove accumulate il sovrappeso. Fianchi, pancia, lo distribuite? E soprattutto che tipo di vita conducete? Che attività praticate, se la praticate? Buongiorno Claudia. Buongiorno, avete colto nel segno. Io ho 59 anni e sono a dieta, più che una dieta vera e propria, controllo molto le calorie, mangio al mattino e a mezzogiorno frutta, ananas, e alla sera mi congestiono il pane, non mangio la pasta in quantità minime, però io riesco a perdere poco e soprattutto è l'adiposità sulla pancia, causata anche da un farmaco che ho smesso, ma comunque c'è. Non ho la macchina, quindi io mi muovo a piedi. Brava. E in questo periodo purtroppo non riesco a fare molte camminate in campagna con i cani perché il tempo è quello che è. E niente, io non riesco, non capisco. L'unica cosa che mi concedo è un po' di cioè un aperitivo o alla sera. Quello si vive. Comunque, dottor Ongaro, una fotografia, quella che ci ha fatto Claudia, che naturalmente lei conosce bene anche nei dettagli, perché è abbastanza una situazione abbastanza frequente. Sì, è una situazione abbastanza frequente e Claudia, non prendiamo quello che diciamo come un giudizio o una critica, per carità, però è un esempio tipico di quello che io chiamo delle pseudo soluzioni, cioè delle soluzioni che la persona pensa di aver adottato ma che in realtà non sono delle vere soluzioni. Allora, intanto nella dieta il contenimento delle calorie è importante, ma non è l'unica variabile da considerare. In particolare se il problema diventa l'accumulo di grasso sulla pancia, per esempio, occorre fare attenzione agli zuccheri e ai carboidrati, e io ho sentito citare solo zuccheri e carboidrati in realtà nella tipologia di alimenti di cui parlava. Secondo punto, ci si può concedere indubbiamente delle eccezioni. L'eccezione dell'aperitivo non è la migliore perché sono calorie inerti che incidono molto sulla variabile dell'accumulo di peso. E altro punto, spesso invece del vino, del vino alternerà ogni una volta un succo di pomodoro, ecco, appunto, per esempio quello. Ma quello che volevo dire è anche poi sul discorso del movimento, anche qui non basta dire mi muovo e poi magari anche accorgersi che però poi, siccome è brutto tempo, le passeggiate diventano poche, occorre avere un piano d'azione. Cioè Claudia sta facendo tante cose, ipoteticamente sono cose tutte giuste, ma non è scesa in un dettaglio sufficiente di piano d'azione vero e proprio, e quindi si fa la domanda che purtroppo si fanno in molti: io non capisco come mai. Ma in realtà il non capisco è perché non sono state fatte tutte le cose che potevano essere fatte. Allora, è una cosa comune, insomma. Allora, possiamo, dottor Ongaro, intanto commentare con lei una ricerca che può essere utile alla nostra amica quando parlava di cereali, di carboidrati. Una ricerca ci dice che i cereali integrali, e vorrei commentarla con lei, tagliano le calorie calorie ne fanno bruciare di più. Sostituirli nella dieta equivale a bruciarne 100 calorie in più al giorno. Le calorie è un concetto che ormai da tempo si è abbandonato, ma questa è già un'indicazione che possiamo dare alla nostra amica. Se sono i cereali, meglio integrali. E quali altre indicazioni per organizzare la sua la giornata e per dare un po' un taglio a queste false buone abitudini? Beh, allora, quella dei cereali integrali indubbiamente ne abbiamo parlato tantissime volte, fa una grossa differenza perché regola il metabolismo della glicemia, il metabolismo dell'insulina in maniera più idonea. Poi direi puntare più che sulla frutta, sulla verdura, anche qui c'è una grossa differenza. La frutta, per carità, è un alimento sano, ma comunque un alimento zuccherino. Starei anche attento, non ha citato nessun alimento proteico, a non scendere troppo nell'apporto delle proteine, perché questo può avere un impatto negativo sulla muscolatura e nella regolazione del peso. In realtà questo è uno dei fattori centrali molto spesso trascurati, cioè uno dei miti più ricorrenti è proprio che si controlla il peso, ma non si capisce che bisogna perdere grasso, non peso, perché il peso è fatto anche da muscoli e se perdo muscoli questo ha un impatto negativo sul metabolismo basale. Quindi noi dobbiamo anche potenziare la nostra massa muscolare, perché è in questo modo che il nostro metabolismo, parola che ci sta particolarmente a cuore, che tiriamo in ballo spesso anche a sproposito, si attiva. Allora, dottor Ungaro, ci aiuti a capire e a dare un giudizio sulla nostra attività fisica, quella che noi consideriamo l'attività che pratichiamo. Come possiamo capire, allo stesso modo che di quanto abbiamo fatto con lo stile alimentare, che l'attività fisica che noi pratichiamo non è adeguata a noi, perché è troppo poca, perché non è equilibrata, perché non rispetta magari le nostre caratteristiche, le nostre esigenze? Quali sono i segnali? Ma allora, Nicoletta, devo dire, il primo punto qui è proprio un punto quasi così, quasi tattico, se vogliamo. Cioè il concetto è, dipende dall'obiettivo che ho in testa, ma devo raggiungere l'obiettivo. Se l'obiettivo non viene, cioè, se io faccio attività fisica per aumentare il fiato non aumenta, c'è qualcosa che non va. Se faccio attività fisica per perdere grasso e il grasso non cala, c'è qualcosa che non va. Il problema è che molto spesso le persone, invece di interrogarsi su che cosa cambiare nel dettaglio della loro routine, si mettono in testa che ci deve essere una causa oscura che impedisce l'ottenimento del risultato, e questo distoglie l'attenzione dal cercare la vera soluzione, perché l'attività fisica ha prima di tutto, il primo segnale che non stiamo facendo un'attività fisica idonea è che non stiamo ottenendo i risultati. Un altro segnale è se non avverto alcun grado di stanchezza o di dolore muscolare. Quello che diceva prima Deborah è molto importante, perché per esempio quando io continuo a fare una certa attività fisica sempre alla stessa intensità, il corpo non si adatta più, quindi io non percepisco più quel minimo di diciamo, chiamiamolo dolore o comunque indolenzimento muscolare, che significa che il muscolo ha sentito quel lavoro e si sta adattando al meglio. Un altro grado di difetto estremo dall'altro lato è quando invece mi sento troppo stanco, faccio un allenamento e sono KO per una settimana, anche qui c'è qualcosa che non va. Quindi sono capire, al di là del farsi seguire magari da un personal trainer quando è possibile, ma comunque capire l'adeguatezza dell'attività fisica è una cosa molto introspettiva, bisogna imparare ad ascoltarsi, sentire le proprie reazioni e sapere che se sto facendo un'attività per un obiettivo e questo obiettivo non lo raggiungo a distanza di qualche mese, non continuo a migliorare, sono in una situazione di stallo, c'è qualcosa che devo cambiare assolutamente. A proposito di attività fisica, sentiamo parlare di attività fisica aerobica e anaerobica. Dottore, a proposito di questo, se potenziando la massa muscolare il mio metabolismo si attiva, verrebbe da pensare meglio i pesi della bici o della camminata. Ecco, ma allora, mi sembra che questa deduzione però magari è un po' troppo semplice per essere vera, così diamo anche delle indicazioni. Stiamo sempre a sottolineare che la dieta deve essere varia ed equilibrata, e quindi un giusto apporto proteico, cambiare le 5 porzioni di frutta e verdura dando la prevalenza, la precedenza alla verdura più che alla frutta, i cereali integrali, dividersi un po' di proteine anche a colazione. Per quanto riguarda l'attività fisica, è passato un po' il concetto. perché siamo spesso sedentari e inattivi, due concetti diversi ma che li mettiamo insieme temporaneamente, l'importante è muoversi e poi vediamo che i risultati non arrivano. Ci sono tante persone che fanno attività aerobica, quindi camminano, vanno in bici, sappiamo che fa bene al cuore, ma poi alla fine non vedono i risultati. I pesi d'altronde sono un po' noiosetti, ma lei nei suoi video, noi mettiamo il link, mandatelo a vederle, trova anche il modo di renderceli simpatici. Ma allora, anche se la poi si vedono i risultati, ecco, brava, il cuore, questo, ecco. Facendo la premessa che poi l'attività fisica che ti piace di più è quella che ti dà i risultati, che qualsiasi attività fisica diventa noiosa se non ti porta ai risultati che vuoi, diciamo che indubbiamente nella regolazione del peso è passata un po' quest'idea che bisogna andare alla ricerca del consumo calorico, quindi di bruciare muovendosi, e quindi si è posta un'attenzione estrema all'attività di più lunga durata, cosiddetta aerobica, quindi intensità non elevatissima e durata più prolungata, che è un'attività che indubbiamente dà dei benefici, ma purtroppo in realtà la spesa energetica di una persona, cioè la quantità di calorie bruciate, è in una misura abbastanza limitata dipendente dal consumo, cioè un 20-30% del dispendio energetico è dato dal consumo durante l'attività fisica, il resto è dato dal consumo nelle 24 ore sostanzialmente per stare fermi, vivi, che è il metabolismo basale questo, no? Allora, quando diciamo ho il metabolismo bloccato, forse stiamo dicendo un'altra cosa, ho un metabolismo basale molto basso. E da cosa dipende il metabolismo basale, che non è altro che la cilindrata, diciamo, del nostro corpo? Dalla massa muscolare. Allora, siccome l'attività aerobica in realtà sulla massa muscolare fa poco o addirittura la riduce, bisogna fare entrambe, questa è la cosa, non è da dire meglio una e meglio l'altra, vanno fatte tutte e due. L'attività aerobica per gestire cuori, polmoni, pressione e salute cardiocircolatoria, e un'attività fatta più con i criteri giusti, con i pesi o qualche altra forma di sovraccarico a seconda della condizione di forma, che può essere anche gli elastici. Ecco, così rispondiamo libero a Stefano di Udine, è come, esatto, se lei avesse letto il suo messaggio. Cioè, nel senso che il sovraccarico poi si può generare in vari modi, ma quello che deve, il concetto che deve passare è che mantenere la massa muscolare è uno dei criteri principali per prevenire molte patologie cronico-degenerative della terza età ed è fondamentale per mantenere un metabolismo attivo adeguato, che è poi quello che ti permette di regolare il tuo peso corporeo senza dover fare delle diete drastiche da pochissime calorie che affamano, svuotano, fanno cadere la massa muscolare, quindi il metabolismo va in tilt. Allora, Stefano ci chiede se per potenziare i muscoli vanno bene gli elastici. Lui pensava di affidarsi magari a dei manuali oppure a un fai da te online. Può andare bene o serve un insegnante? No, allora, può essere sufficiente? Può andare bene, dipende molto dalla condizione di forma del soggetto e dall'età. È chiaro che un ragazzo di 20 anni con gli elastici poco sovraccarica i muscoli. Se la persona è un po' più avanti con gli anni e non ha una condizione di forza particolarmente elevata, può essere un ottimo punto di partenza, addirittura può essere anche sufficiente, però questo, voglio dire, va valutato comunque. Diversificare anche nell'attività fisica, assolutamente. Sì. Allora, Cristina sì, dalla provincia di Roma, e subito dopo Luigi da Firenze, e poi ultimi consigli del dottor Ongaro, se magari ci dà qualche trucchetto, non scorciatoie, ma per far fruttare al massimo questo, in questa sorta di investimento, perché cambiare di vita, cambiare stile alimentare, stile di vita in generale, è comunque un passo importante e anche un investimento a medio e lungo termine. Allora, Cristina, buongiorno, l'ho fatta attendere, ma il dottor Ongaro è tutto per lei. Buongiorno, grazie. Allora, ho 52 anni, ero un ex agonista, adesso insegno Ashtanga Yoga, che è uno stile dinamico di yoga. La mia alimentazione è normale, quindi sono magra, peso 51-52 kg, alta 1,60, quindi per un comunque... Allora, venga la domanda, Cristina, perché noi abbiamo il centralino, esatto, in fumo. No, perché aveva detto di parlare anche di se stesso. Allora, sì, io ho telefonato per mio figlio, che ugualmente è magro, e fa attività a calcio tutti i giorni, fa due attività veramente, ma l'alimentazione non so se è corretta, perché ho paura dei problemi che magari non si vedono, no? Cioè mangia, che so, il panino con la Nutella la mattina, poi siccome pranza a scuola mangia con la pizza. Quindi sia la mattina sia pranzo, pizza o panino col prosciutto. Pizza, panino. Poi, il ragazzino, esatto. E come si dice? Ma il ragazzino, perché il ragazzino ha fame, ma poi alla fine questa alimentazione per un ragazzo che è in una fase di crescita, ma è anche sportivo. Cristina, sintetizzo, ma nel caso ci manda poi una mail. Dottor Ongaro, pensiamo anche ai ragazzi. Sì, allora la prima cosa è quella di dire non starei in ansia per questo, i ragazzi per fortuna compensano molto bene anche questi periodi della vita in cui magari mangiano meno bene. Certo, bisogna fare un percorso di educazione e la cosa più importante è farlo a casa e in famiglia, perché dove poi non c'è il controllo diretto dell'alimentazione, per esempio quando i ragazzi sono fuori o sono a scuola, non è che possiamo incidere molto, però se perlomeno in tutte le occasioni in cui sono a casa li abituiamo a determinate regole, credo che sia molto utile. Il cambiamento nei ragazzi e ancora di più nei bambini dipende molto dallo stile alimentare dei genitori e della famiglia intera. Non si può, dal mio punto di vista, cercare di imporre determinate soluzioni soltanto ai figli, ma come i ragazzi prendono l'abitudine dell'attività fisica guardando i genitori, così si deve fare anche per l'alimentazione. Allora, vorrei dimagrire qualche chilo, mangio molta frutta. Ho cominciato da qualche mese a correre, ma invece di dimagrire sono aumentata di peso. Troppa frutta, faccio un po' il dottor Ongaro. Altro esempio, Nicoletta, di un errore tipico. Cioè la parola proteina proprio non esiste. Sì, esatto. Poi però si sente sempre dire che mangiano troppe proteine. In realtà io continuo a dire che si fa fatica a trovare chi mangia troppe proteine, oppure si trova chi mangia le proteine sbagliate. Trovassi uno che mi dice mangio tantissimo pesce, non si sente mai, per dire. Il concetto della frutta è un concetto molto tipico, cioè con tanta frutta diventa molto più difficile dimagrire, perché do comunque sempre un input alla glicemia, terrò l'insulina più alta, finché l'insulina è alta è difficile perdere chilo. Quanta frutta possiamo, allora, delle 5 porzioni di frutta e verdura, perché noi abbiamo sempre in mente questo 5, qual è la distribuzione ottimale e proprio visiva? Cioè ci dia un... Io molto semplicemente, Nicoletta, io tendo a dire che bisogna stare attorno ai 2 frutti al giorno. Detto questo, è chiaro che anche qui c'è una differenza, perché se faccio molta attività fisica, avere un po' più di zuccheri, cioè di zuccheri che di base sono sani come quelli della frutta, averne un po' di più può anche starci, ma se sono non particolarmente attivo, credo che più di 2 frutti al giorno comincia a essere già una quantità potenzialmente elevata, mentre sulla verdura starei possiamo molto anche possiamo anche esagerare. Sì. Luigi, buongiorno da Firenze. Signora, buongiorno a lei, a Nicoletta, buongiorno al dottore. Io sono un runner che 3 anni fa pesava 90 kg, adesso sono 64, ho fatto la mia prima maratona dopo avermi preparato per 3 anni. Bravo. Di Firenze 42 km in 3 ore e 34. Wow, Luigi, ma che soddisfazione ci dà! Bravissimo. Il professore dice una cosa giusta, bisogna fissarsi un obiettivo. Il mio obiettivo era quello di fare la maratona e l'ho fatta e vi garantisco è un'emozione che mi viene i brividi ancora adesso. E anche le persone che partecipano, sordomuti eccetera, quindi consiglio, ho 41 anni e in più adesso ho come punto di arrivo una mezza maratona che adesso si farà a Scandicci con dei tempi molto praticamente bassi. La mia domanda è questa, nel momento della preparazione la mia alimentazione è equilibrata, alla frutta metto pompelmo eccetera, eccetera, mangio anche 3 frutti e la sera quando si dice hai la fame chimica, significa tanto fama, mangio carote eccetera e mi passa, però in questo momento sto notando che il mio corpo mi chiede di più, cioè nel senso sento proprio il bisogno di mangiare qualcosa in più, quindi la domanda è questa al dottore, quando c'è questo campanellino d'allarme? Non è corpo, magari non è d'allarme. No, io dico quando c'è un campanellino di questi, il mio corpo può mangiare di più? Devo essere seguito? Come faccio a capire se c'è qualche non problema, ma... Sì, che cosa? Perché il dottor Ongaro dice ascoltate il vostro corpo. Ascoltiamo una risposta breve e sintetica del dottor Ongaro prima di passare la parola poi a Deborah, che non parlerà di diete. Molto brevemente, credo che si rientri già in quello che definiamo la nutrizione sportiva questa, e quindi indubbiamente può essere che il corpo dica ho bisogno di più perché i carichi di lavoro sono importanti. Consiglio, se si vuole raggiungere un'alta prestazione in questi tipi di sport, non è sbagliato affidarsi a un nutrizionista che si occupi di sport, perché si può fare una grande differenza curando la nutrizione in maniera più specifica. Dottor Ongaro, torni presto a trovarci. Che dire? E ad Ulisse che ci scrive che la trasmissione di oggi dà questo messaggio: non fare sport, non mangiare frutta. Chiediamo ad Ulisse di riascoltarla in podcast. Esatto, che magari il messaggio entra. Che il messaggio sicuramente. Sì, perché non è proprio questo, Ulisse. Anzi, direi che è proprio il contrario. Va bene. Comunque, grazie ad Ulisse perché ci mette un campanellino. Ma noi passiamo la parola a Deborah. Andiamo alla campanella di borsa. Grazie, dottor Ongaro. Buona giornata. Buona giornata. La borsa, e poi andiamo al nostro approfondimento. È già arrivato Nicola Borsi del Sole 24 Ore. Ci collegheremo poi con l'avvocato Letizia Vescovini di Modena. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Cuore e denari. Carlo, tu sei un toscanaccio, che fino all'età di 23 anni hai lavorato in una banca toscana, giusto? Sì. Maria, scusami, tu da giovane hai tentato la carriera in magistratura, giusto? Sì. Mi hanno bocciato. Okay, cioè uno mi nasce nel mondo delle banche toscane e l'altro in quello della magistratura. Se aveste proseguito le vostre carriere, vi sareste incontrati lo stesso, in un tribunale, ma vi sareste incontrati. Vedi che era il destino. Sempre grande Maurizio Crozza, non c'è niente da fare, ad ogni sketch riusciamo a rubare qualche pezzo che va bene per il nostro programma. Peraltro nella seconda serata c'era un pezzo molto bello dedicato alle donne in stato interessante, alle discriminazioni bellissimo ancora nel mondo del lavoro, e sono certa, Nicoletta, che quello lo useremo tantissimo. Nei confronti delle donne in stato interessante, lo Stato è disinteressato, questa frase insomma si è detto tutto. Detto questo, invece, noi abbiamo scomodato la parte sulle banche toscane, quindi il tema è presto detto. Allora, è uscito due giorni fa da Palazzo Madama, cioè dal Senato, forte della fiducia posta dal governo Gentiloni, il decreto legge varato alla vigilia di Natale, il provvedimento appunto varato alla vigilia di Natale per far fronte alla crisi del sistema creditizio, il ribattezzato decreto salva risparmio. Ci sono molte novità che riguardano i temi cari a cuore e denari, a partire da quelle sui requisiti che permettono l'indennizzo ai piccoli investitori titolari di obbligazioni subordinate forzosamente convertite in azioni per effetto del burden sharing. È tutto molto complicato, ma adesso traduciamo per i nostri ascoltatori. Forzosamente convertite quando interviene la ricapitalizzazione precauzionale, si legga Monte dei Paschi. Altra novità importante: sono stati riaperti fino al 31 maggio i termini per aderire ai rimborsi forfettari dell'80% per i clienti delle quattro banche regionali finite in risoluzione: Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. I termini della prima fase di questa operazione si erano chiusi il 3 gennaio, ma evidentemente è stato necessario riaprire appunto l'operazione, e cercheremo di capire perché e a quali nuove condizioni. Nicola Borsi del Sole 24 Ore, coordinatore di Plus 24, torna peraltro Plus 24 domani su molti di questi argomenti. Intanto ciao, ben ritrovato. Buongiorno Debora, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Che ci avevi anticipato a metà settimana che vi sareste occupati di questi temi, abbiamo ben pensato appunto di ritornarci anche noi, e buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina l'avvocato Letizia Vescovini di Modena. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Che ormai Plus 24 sta obbligando a specializzarsi su questi casi, per ma cui anche noi l'avvocato Vescovini, che saluto, è già specializzata di su. E infatti. Allora, Nicola, vogliamo chiarirci subito le idee su Monte dei Paschi. Il provvedimento di cui abbiamo parlato è stato varato per consentire di introdurre una garanzia di Stato sulle nuove emissioni obbligazionarie appunto di Monte dei Paschi. Infatti MPS ne ha già emesse due con scadenza 2018 e 2020. Non sono titoli che possono essere acquistati dal risparmio retail. Che caratteristiche hanno queste emissioni? Cosa c'è da raccontare rispetto a questa operazione, che peraltro è molto importante perché si lega anche alle obbligazioni di Monte dei Paschi già in circolazione, detenute dal pubblico retail, e che non so se possano essere liquidate o meno. No, in questo momento i titoli, tutti i titoli emessi dal Monte dei Paschi, sia le azioni che le obbligazioni subordinate che i titoli senior, sono bloccate, o senior come si direbbe correttamente, sono bloccate sui conti titoli dei clienti, perché la decisione della Consob al momento dell'intervento precauzionale dello Stato è stata quella di toglierli dalle negoziazioni, quindi non si possono né vendere né acquistare. Si tratta di un controvalore di una trentina di miliardi di euro di titoli, oltre un centinaio di emissioni diverse bloccati. Noi abbiamo fatto, e domani Plus lo racconterà, il censimento delle scadenze di questi titoli, sentendo anche le banche, perché in realtà poi ci sono differenze tra le banche dati e i titoli che vengono riacquistati. Abbiamo visto che per tre banche, in particolare Monte dei Paschi, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, c'è una quantità di titoli in circolazione che scade entro il 2017 che è abbastanza elevata. Siccome queste tre banche, Monte dei Paschi perché è sotto l'intervento precauzionale e le altre due sono in una situazione di difficoltà seria nonostante l'intervento di Atlante, avrebbero difficoltà o sarebbero impossibilitate a tornare sul mercato perché le emissioni dovrebbero pagare dei rendimenti elevatissimi e quindi sarebbero estremamente costose, lo Stato ha consentito a questi tre istituti di emettere titoli con una garanzia di rimborso. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che queste banche sono già uscite sul mercato con 5 emissioni, 2 MPS, una la Popolare di Vicenza e 2 Veneto Banca, che hanno coperto praticamente solo con questi 5 titoli tutto il fabbisogno di liquidità per i rimborsi delle emissioni in scadenza entro il 2017. Quindi da quel punto di vista lì le banche si sono messe al sicuro, pagano interessi molto bassi. A chi sono state collocate queste obbligazioni? Allora, questi sono titoli per istituzionali, in alcuni casi le BEI sono stati collocati sul mercato, in altri casi le ha sottoscritte la stessa banca. Infatti era un aspetto che veniva sollevato su Monte dei Paschi, che ha veramente un po' dell'originale. Ti emetti in obbligazione per ricomprartela? Sì, perché? Perché poi la porti a sconto nei meccanismi di acquisto, ad esempio, della Banca Centrale Europea. Come famoso collaterale. Esatto, come collaterale per ottenere ulteriore liquidità. Quindi da questo punto di vista si tratta di un'operazione che serve a mettere in sicurezza i fabbisogni di liquidità di questi tre istituti nel breve periodo. Ci sono però altre ricadute del decreto salvabanche. Andiamo allora subito a svelarle, perché è importante. Andiamo soprattutto a svelare, Nicola, se ce la facciamo, quegli aspetti che sono di interesse per il piccolo risparmiatore che magari stamattina potrebbe essere appunto all'ascolto e suo malgrado coinvolto in una delle tre vicende appunto citate. Allora, ce ne sono due in particolare. Uno che riguarda il burden sharing, cioè la condivisione degli oneri delle ristrutturazioni bancarie, che è molto rilevante perché fissa al 31 dicembre 2015 la data entro la quale si può in qualche modo ipotizzare che chi ha sottoscritto obbligazioni subordinate abbia ricevuto un danno a causa di cosiddetto mis-selling, cioè di una vendita non appropriata di titoli perché il risparmiatore non ne era sufficientemente a conoscenza. Il 31 dicembre è una data rilevante perché dal 1 gennaio del 2015. È una data rilevante perché dal 1 gennaio 2016 è entrata in vigore anche in Italia la direttiva BRRD. Quindi il bail-in. Questo significa che chi ha sottoscritto titoli prima di quella data può cercare di far valere, in caso di distruzione di valore, la possibilità di che gli sia riconosciuto di essere stata vittima di mis-selling. Altra cosa rilevante che riguarda in particolare i detentori di obbligazioni subordinate del Monte dei Paschi, che vengono convertite in capitale e che secondo i calcoli dovrebbero arrivare al 25% del valore azionario della nuova banca dopo l'intervento del Tesoro, che cosa succede? Succede che il decreto stabilisce che il rimborso pro quota del valore sottoscritto non si fa più sul nominale, quindi sul 100% dell'obbligazione, ma proprio sul valore dell'investimento, cioè su quanto quel titolo è stato pagato. Perché? Perché c'era nella prima versione dell'intervento questa disparità di trattamento, per cui qualcuno che aveva sottoscritto obbligazioni magari a 50 si vedeva riconoscere la possibilità di una conversione in azioni sul valore nominale, quindi su 100, e quindi si premiavano comportamenti speculativi. Certamente. Mentre in questo caso è stato giustamente stabilito che non si premia lo speculatore, ma si va a rimborsare sul valore effettivamente investito, cioè quello su quello di carico. Tutto questo è stato introdotto dalla misura di Natale, praticamente. Esatto. Tutte queste novità. Quindi altro che salva banche, c'è anche un aspetto salva risparmio. C'è anche un aspetto salva risparmio. Oltretutto poi ci sono interventi anche, come hai detto, sui risparmiatori, soltanto però gli obbligazionisti subordinati, certo, delle quattro banche risolte. E adesso Letizia Vescovini ci dice 2015. Tutto, però volevo completare il ragionamento su Monte dei Paschi perché c'è una richiesta di chiarimento da Lello dalla provincia di Napoli. Buongiorno Lello, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Praticamente io mi sono trovato in una situazione che non mi aspettavo proprio. Io sono un azionista, anzi purtroppo... non so queste azioni mie che fine hanno fatto. E quando si sbloccherà questa cosa? Cioè io avevo un capitale che mi è stato congelato, non ho avuto la possibilità, che se era 100 è diventato 1, lo volevo vendere. Mi sono trovato, diciamo, con le manette. Però Lello, allora, si toglieranno. Lei è un azionista, adesso per carità, con tutto il rispetto, le azioni di Monte dei Paschi sono bloccate dalle contrattazioni dal 22 dicembre e non è esattamente dal 20 di dicembre che si parlava della crisi di Monte dei Paschi, di un tracollo del valore del titolo, di una situazione molto molto difficile. Perché non si è deciso prima di vendere? Mi sente? Sì. Posso parlare io? Sì. Sì, non è che non ho deciso, io credevo nell'ultimo aumento di capitale che andava avanti, diciamo le ho ottenute. Ho capito, no, è importante che poi ha precisato questo aspetto, Lello, sì, perché lì effettivamente non è andata bene l'aumento di capitale. E quindi mi sono trovato in questo. Buongiorno, eccoci buongiorno. Qua. Sì, e il problema è un problema serio, nel senso che tanti sono rimasti, a mio avviso, questa è un'opinione di tipo personale, sono rimasti in qualche modo abbacinati dalla possibilità che questi interventi di salvataggio, che sono stati più volte presentati in maniera molto tranquillizzante, andassero a buon fine. In realtà questi interventi a buon fine purtroppo non sono andati e le notizie adesso sono negative. Nel senso, chi ha sottoscritto azioni che sono in questo momento bloccate sul conto titoli in attesa che divenga poi operativo l'intervento dal punto di vista formale. Quindi teoricamente potrebbero rientrare in negoziazione Io credo che verranno azzerate le azioni con il burden sharing. Ecco. Credo che verranno azzerate, o se non saranno azzerate saranno diluite quasi integralmente, per cui il valore che era già molto molto ridotto, perché ricordiamoci che c'erano stati negli anni due accorpamenti di 100 nuovi, di 100 vecchi titoli per un nuovo titolo. Quindi sostanzialmente un'azione attuale esprime il valore di 10.000 azioni pre-crisi del 2007-2008 e già si era ridotto quindi di oltre il 95-96%, adesso praticamente queste vanno a scomparire. C'è interessante materia legale per intervenire, adesso purtroppo sentiremo anche l'opinione dell'avvocato Vescovini dopo il traffico, tra un attimo. Cuore e denari. Avvocato Vescovini, eccoci a lei. Allora abbiamo gli ultimi 10 minuti di tempo per farle spiegare, poi commenteremo il caso di Lello, se lei si è fatta un'idea anche su questa sua situazione. Però volevo che ci spiegasse le motivazioni per cui sono stati riaperti al 31 maggio di quest'anno i termini per aderire ai rimborsi forfettari nella misura dell'80% dell'investimento iniziale, appunto per i clienti delle 4 banche finite in risoluzione nel famoso novembre del 2015, Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. Perché si è resa necessaria questa riapertura e che novità ci sono? Avvocato. Sì, allora sono state apportate delle modifiche al decreto indennizzi, che era quello che appunto riconosceva la possibilità ai detentori di obbligazioni subordinate delle 4 banche risolte di procedere con l'accesso al fondo di solidarietà per tentare di ottenere un rimborso del loro investimento. E infatti ricordiamo che questa operazione di rimborso è stata gestita dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Chiuso. Sì. Sì. E, il primo termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo che consentiva di riottenere l'80% dell'obbligazione azzerata scadeva il 31/12/2016. Nello stesso decreto era prevista inizialmente la possibilità di scegliere in alternativa l'ipotesi dell'indennizzo diretto, ovvero l'arbitrato. L'arbitrato ancora oggi non è mai partito e è ancora in via di definizione il decreto che dovrebbe prevedere appunto le modalità di accesso. Esatto, e dati i tempi ci immaginiamo quanta volontà politica ci sia di far partire l'arbitrato. Chiusa parentesi, la viperetta ha parlato adesso. Sembrerebbe che la prossima settimana fosse quella buona, ecco, vediamo se le promesse verranno mantenute. In ogni caso, insomma, questa riapertura consentirebbe innanzitutto la possibilità di permettere agli obbligazionisti quella scelta che sino ad ora è stata a loro pregiudicata. Inoltre c'è da considerare che è stato emendato appunto il decreto consentendo un'apertura a soggetti che in precedenza non avevano diritto. Per esempio? Nel senso che tra i requisiti precedenti c'era quello di avere un reddito complessivo nel 2014 inferiore ai 35.000 euro e valori immobiliari inferiori a 100.000. In particolare riguardo a questo secondo requisito, nel calcolo dei valori immobiliari, cioè dei titoli presenti sul dossier, venivano inserite anche le obbligazioni subordinate azzerate, quindi per essere concreti, se si avevano 105.000 euro di valore sul deposito titoli e 100 erano in obbligazioni subordinate, non si aveva la possibilità di accedere a questo tipo di strumento. E invece, siccome quello è una cosa che vale zero, giustamente. Ecco, mi sembrava una cosa un pochino troppo. Ci hanno messo per accorgersi. Comunque c'erano anche delle situazioni di questo tipo, e queste persone adesso rientrano invece nel meccanismo dell'indennizzo forfettario. Le chiedo, avvocato Vescovini, se lei, visto che ci ha detto poco fa che l'arbitrato è pronto a partire, casualmente si riaprono con il provvedimento di Natale i termini per consentire a un numero maggiore di persone di aderire invece all'opzione rimborsi forfettari. Non è che in questo modo, con la riapertura, in qualche maniera si vogliono spingere le persone che hanno scelto di non fare la procedura del rimborso forfettario perché volevano e aspettavano un arbitrato? È un modo per disincentivare appunto il ricorso all'autorità di Cantone? Ma in realtà il ricorso all'autorità di Cantone è ancora talmente tanto nebulosa che non penso che venga vista dai risparmiatori come un'opzione concreta, reale, migliorativa rispetto all'ipotesi dell'indennizzo forfettario, perché ricordiamo che nell'indennizzo forfettario, una volta che si hanno i requisiti, il rimborso dovrebbe essere pressoché automatico, salvo errori o nella presentazione dell'istanza. No, devo dire che il fondo interbancario, nell'analisi delle istruttorie e delle pratiche nel rimborso, è stato anche abbastanza Nicola, no, non permettermi, però ci sono anche delle questioni che io ritengo ancora non sufficientemente corrette. Ad esempio, il limite di reddito stabilito su un solo anno, per cui se hai 35.000 euro di ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, sei dentro; se ne hai 35.001 sei fuori. Oltretutto, questo decreto stabilisce anche, come dire, un allargamento della platea, perché introduce il rimborso forfettario anche per i coniugi e i parenti entro il secondo grado, che prima erano esclusi, in caso di transazione tra vivi. Ma ci sono tutta una serie di questioni, ad esempio le successioni. Certo. Se qualcuno è venuto a mancare, aveva la titolarità di questo investimento, non si capisce bene su chi ricade l'onere di esperire appunto per il rimborso forfettario. Avvocato Vescovini. Sì, come dice giustamente Nicola Borzi, il reddito complessivo preso di riferimento riguarda solo un anno, e quindi in tanti risparmiatori hanno appunto contestato l'ingiustizia di questo criterio, perché magari negli anni precedenti e successivi sarebbero rientrati e non proprio in quello. Poi riguardo invece l'apertura ai soggetti che hanno ricevuto il titolo operato tra vivi, è stata accolta in modo molto positivo, perché diciamo c'è stata una sorta di parificazione con chi invece aveva ottenuto il titolo per passaggio mortis causa, quindi accadeva in precedenza che il nipote che aveva avuto il titolo in eredità del nonno era legittimato a presentare l'istanza, mentre il nipote che aveva ricevuto il titolo quando il nonno era ancora in vita non poteva presentare l'istanza. In questo caso, appunto, prevedendo questo emendamento, questo allargamento ha consentito sia al coniuge che ai conviventi morioxorio e ai parenti fino al secondo grado di essere equiparati ai successori mortis causa, quindi anche l'atto tra vivi consente la presentazione dell'istanza. È una situazione questa che molto sentite presente in banca Carife, dove per prassi della banca spesso accadeva che venissero contestati dossier titoli a parenti all'interno della famiglia, e quindi ci poteva essere una sorta di presunzione di inserimento del titolo nel dossier con passaggio tra vivi del titolo. Pertanto, insomma, speriamo che in questo modo si possa ritenere risolta questa problematica. Ma il tema è che le situazioni sono ad una così differenti che veramente si ha la sensazione che si renda necessario un provvedimento al mese per andare a dipanare una matassa complicatissima. Non ci arriveremo mai, Nicola, per non dimenticarci poi che c'è tutta la partita anche apertissima dei ristori proposti agli azionisti di Pop Vicenza e Veneto Banca. Qui è stato proposto questo indennizzo microscopico in quel caso per provare a disinnescare tutto il potenziale contenzioso legale, e quindi qua hai voglia posso ancora dire parlare che è stata di definita temi. Un'opa sulle cause, come mi ha detto uno dei portavoce di uno di questi istituti. Sì, il problema è molto ampio, in realtà si sta verificando un'esplosione del contenzioso, ne parliamo anche su Plus 24 in edicola domani, ma su molti fronti. Ad esempio, una delle materie che sta trascinando il contenzioso all'arbitro bancario finanziario, ad esempio, non ha a che fare con gli investimenti, ma con i finanziamenti, con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. E diciamo che ci sono tutta una serie di situazioni nelle quali ormai il contenzioso diventa l'ordine esplosivo. Del giorno, infatti. Possiamo dire che in realtà però dall'inizio di quest'anno c'è anche l'arbitro per le controversie finanziarie della Consob. Vedremo se sarà utilizzato eventualmente alternativamente all'arbitro ANAC. Avvocato Vescovini, noi siamo in chiusura, 20 secondi per un ultimo messaggio, se le servono? Sì, spererei che venissero previste misure ristoratorie anche per chi ha acquistato obbligazioni non in contropartita diretta, quindi anche da altri intermediari. In modo che diciamo non ci sia questa diversità tra obbligazionista e obbligazionista. E se mi posso permettere, la cosa secondo me più corretta sarebbe prevedere l'accesso all'arbitrato anche agli azionisti, in quanto chi ha comprato azioni da queste piccole quattro banche non lo ha fatto sicuramente con l'intento. Ma no, ma magari spesso perché si è preso pure lì il mutuo famoso e in contropartita la banca chiedeva la sottoscrizione o dell'obbligazione o dell'azione. Grazie Letizia Viscovini e Nicola Borsi, torniamo lunedì, buon weekend a tutti. Buon weekend.